cascin che cria, pure pronto da mangiare la vasse fitto e ma penso a me vita vera senza una pullina cala segna o se violì da sei a mattina. Poi ti domandi scusa, ti te vigin la scena diverti a segna con i pittini. Poi mi la mio e penso che le viva grazie a me e alla mucca me mugge ma tu non conti tu che mi non so com'è ave una figgia che quando mi torno a ca mi dice ciao papà per una figgia così mi puoi anche muri tanto amore. Mandasse schea chi che se figgea calava bene ma fa in sacco de casi e non puoi capi quante la somiglia se muè aga o meggi un sorriso e aga e gisse me non riesci ci a pensare nessuno senza lei. Ma questo le ho messo in mu e non le avevi te e mia l'aspettio anche per tutta vita a me perché a lei parte di me anche se non le ho con chi mi non so come lei ave una figgia che quando mi torno a ca me dice ciao papà bella figgia così mi puoi anche muri tanto amore mi numo sai eva ma aspetto quando me puoi ugaveva mette mi suonavo già il pianoforte da 5 anni non mi sento vecchio anzi son sempre ciusino ed è mia figgia mio capio non posso farne a meno e alle una sorpresa così strana le a mia vita mi pensavo che per me le a me giuesse da solo o invece mi non so come mi piggia mi giro intorno e non so perché non go in affeggia mi non so